in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ben trovati, bentornati, spero, alla nostra rassegna stampa internazionale, dove cerchiamo di avere uno sguardo un pochino più ampio sia su quello che viene pubblicato all'estero, sia magari su quello che all'estero viene pubblicato sull'Italia. Comincio questa settimana da un articolo apparso su Spiegel, Der Spiegel, che è uno dei due news magazine tedeschi, uno è Spiegel, l'altro è Stern. Spiegel significa specchio in tedesco e è sicuramente un settimanale molto autorevole che si occupa delle quote rosa in Parlamento ed è molto interessante perché sappiamo che basta guardare a chi ha il coraggio di farlo, a seguire una cronaca parlamentare. Basta dare uno sguardo al nostro Parlamento, il Parlamento nazionale, non importa quale delle due Camere, o il Senato o la Camera dei Deputati, per rendersi conto di quante poche donne ci siano. Si discute molto in Italia di quote rosa, alcune aziende le hanno introdotte, si parla di quote rosa nelle liste, però la situazione è ancora questa. Ma non siamo soli. E scrive per esempio Spiegel, analizzando i dati sul Parlamento, nuovo Parlamento tedesco, quello uscito dalle elezioni che hanno visto vincere come candidato cancelliere Angela Merkel, spiega appunto che il nuovo Parlamento tedesco non solo è più grande rispetto a quello della scorsa legislatura, ma pensate, è anche più maschile. Solo 218 dei 709 parlamentari sono donne, pare a circa il 31%. Su questo fronte, scrive Spiegel, la Germania è in buona compagnia, pressoché in tutto il mondo sono gli uomini a detenere la maggioranza più significativa nei parlamenti. E che non debba essere per forza così, lo testimoniano i paesi scandinavi. La Svezia è considerata in molti ambiti un modello di parità tra i sessi e quindi anche in Parlamento la quota rosa raggiunge il 46%. La Finlandia è stato uno dei primi paesi in cui le donne hanno potuto candidarsi al Parlamento. Ricordiamo per inciso che in Italia alle donne il voto è stato concesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. E oggi in Finlandia il 42% dei seggi è occupato da una donna. Le quote rosa, ci sono anche i fanalini di coda, che sono Kuwait e Giappone. Invece in fondo alla classifica europea c'è l'Ungheria. Attenzione a Ruanda, scrive sempre Spiegel, perché è un caso più unico che raro, perché ha la più alta quota rosa ed è l'unico stato, oltre alla Bolivia, a contare più onorevoli donne che uomini. Perché sorrido? Perché non si può dire certo che Ruanda, come purtroppo tantissimi altri paesi africani, sia all'avanguardia per la parità di ruoli tra i sessi, però forse iniziare dal Parlamento, senza forse, è un bel iniziare. E questo articolo lo trovate integralmente tradotto su voxeurope.eu, secondo me è interessantissimo, anche perché lì è corredato, grazie anche alla partnership che ha Vox Europe con i giornalisti consorziati nel data journalism, è anche corredato da tabelle molto interessanti. Restiamo un attimo in Germania perché, come sapete, abbiamo detto, ci sono state queste elezioni. Angela Merkel ha vinto, ma una vittoria un po' meno schiacciante del previsto e soprattutto ha difficoltà a formare una nuova, forse grosse coalizione o comunque a trovare gli alleati giusti per dare un governo quanto più solido possibile per i prossimi 5 anni alla Germania. E per esempio scopriamo che il leader dei cristiano sociali bavaresi, Horst Seehofer, è in difficoltà perché l'unione giovanile del suo partito ha chiesto le sue dimissioni. È un retroscena politico riportato dalla Süddeutsche Zeitung, perché i giovani di questo partito chiedono, e se qualcuno ha già sentito queste parole in Italia, probabilmente, anzi sicuramente molti di noi le hanno sentite, si chiede un nuovo inizio per affrontare un passaggio ordinato ai vertici del governo. Una questione di cui si parlerà molto, anche perché c'è anche un giornale, un settimanale in Italia che è l'Espresso, che ha preso parte a questa grande inchiesta che segue un po' i Panama Papers. Questi si chiamano Paradise Papers, è un altro esempio di giornalismo investigativo internazionale che ha visto appunto consorziarsi i giornalisti più esperti in questo tipo di investigazioni del Guardian britannico, New York Times americano, Le Monde in Francia, la Süddeutsche Zeitung in Germania e l'Espresso appunto in Italia. E questa inchiesta, che verrà svelata un po' a puntate, alcune cose sono già uscite, e questo per esempio appunto questa anticipazione la fa il Guardian, imbarazza tantissime persone e tantissime aziende, tra le quali per esempio la Apple, che secondo questi Paradise Papers avrebbe nascosto miliardi di dollari a Jersey, una piccola isola nello stretto della Manica. Vedremo insomma come proseguirà come proseguiranno queste rivelazioni. Vi dicevo, usiamo questo spazio anche per vedere un po' come ci vedono dall'estero. E allora, per esempio, Le Monde, come tantissimi altri quotidiani e magazine stranieri, hanno commentato le nostre non elezioni politiche, ma quelle che tutti considerano un test importante per le politiche che in Italia saranno nella primavera del 2018. Parliamo naturalmente delle elezioni che ci sono state in Sicilia domenica scorsa. Lunedì abbiamo avuto i risultati e quindi Le Monde scrive: dopo la Sicilia, la destra vuole riconquistare l'Italia. Silvio Berlusconi, ha scritto Le Monde, si è attribuito la vittoria del candidato proveniente da questa formazione che Le Monde definisce post-fascista. Il riferimento è naturalmente Anello Musumeci, e poi vengono anche analizzate le performance degli altri partiti, in primis il Movimento 5 Stelle, che è comunque il primo partito, ma sappiamo, non avendo alleati, non potrà governare, ma resterà all'opposizione. Sempre Le Monde, per parlare di un'altra questione importante, che è quella e di altre elezioni, che la questione è quella del filo europeismo o dell'essere anti-europei, e le elezioni a cui facciamo riferimento in questo caso sono quelle che si sono tenute in Austria, che hanno visto l'affermazione di Sebastian Kurz, che era il candidato del centrodestra. E a Le Monde Kurz ha detto: io sento come un dovere quello di essere filo europeo, quindi respingo le accuse o le ipotesi che il mio governo seguirà l'euroscetticismo di altri governi europei. Il riferimento è per esempio a quello di Viktor Orban in Ungheria, e dice su quello che ha detto Macron. Sapete che Macron poco dopo il suo insediamento ha fatto un discorso veramente da statista europeo sull'importanza di ribadire i valori europei, e a domanda su cosa pensasse appunto della posizione di Macron, Kurz ha risposto: apprezzo moltissimo il presidente francese, la sua capacità di azione è notevole, condivido la sua volontà di riforme e in particolare le idee rispetto alle questioni di sicurezza migratoria. Un po' una risposta sibillina, potremmo dire. Vi segnalo poi, a proposito ancora di voti, naturalmente un accenno, vi lascio immaginare quanti ancora articoli ci sono sulla questione della Catalogna. Interessante quello apparso sull'Economist, tradotto da Internazionale, che si intitola I referendum del Nord, e si riferisce ai referendum che avevano, lo sapete, un valore puramente consultivo, che si sono tenuti qui in Italia 2 settimane fa, in Lombardia e Veneto, per chiedere maggiore indipendenza. Secondo l'Economist, a differenza della Catalogna, queste due regioni italiane non chiedono l'indipendenza, la maggiore autonomia, scusate, almeno per ora. E quello che dice l'Economist, e credo che sia buon senso, ma forse in questi tempi meglio ripetere più che si può frasi di buon senso, dice: occorre aprire una trattativa, cioè non fare l'errore che è stato fatto in Spagna. Ripeto, sono questioni completamente diverse. La Catalogna vuole proprio l'indipendenza dalla Spagna, o meglio, gli indipendentisti della Catalogna vogliono questo. Nel caso dell'Italia si chiede invece maggiore autonomia all'interno comunque dello Stato italiano, dell'appartenenza allo Stato italiano. Però comunque in quel caso, nel caso della Spagna, le richieste indipendentiste sono state completamente ignorate per troppo tempo. Quindi, dice l'Economist, speriamo che in Italia non si faccia lo stesso errore. L'articolo più bello però che voglio segnalarvi questa settimana, chi vuole lo può trovare e leggere in originale sulla London Review of Books, e se no lo ha tradotto anche in questo caso Internazionale. È un articolo lunghissimo che si intitola La coscienza del polpo. Io credo che molti di voi sappiano che è già assodato che il polpo è un animale estremamente intelligente, comunque si definisca l'intelligenza. Ma in questo articolo si spiega che la mente dei polpi è così evoluta che alcuni li considerano la cosa più vicina a una specie aliena intelligente sulla Terra. E da qui davvero si aprono scenari fantasiosi, fantasy quali, quasi. La conclusione è molto, un po' di humor inglese: dice, forse dal nostro punto di vista la vita di un polpo selvatico è già di per sé tragica, fatta di socialità, senza società, di messaggi inascoltati e di un mondo vitale poco longevo. Un alieno. Se il polpo fosse più simile a noi, forse lo lasceremmo in pace. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.